Respiro. Ben ritrovati da Laura Bettini per questa nuova puntata di Respiro. Parliamo oggi di un rapporto che il Sole 24 Ore pubblica ormai da diversi anni. È quello sulla vivibilità ambientale dei capoluoghi di provincia italiani. Si chiama Ecosistema Urbano ed è realizzato da Legambiente con la collaborazione dell'Istituto di Ricerche Ambiente Italia. È un rapporto ben noto, molto minuzioso, che analizza il carico che le attività economiche e gli stili di vita generano sulle risorse ambientali e la qualità delle risposte messe in atto dalle amministrazioni comunali. Anche quest'anno la città con la miglior qualità ambientale è risultata essere Belluno, seguita da Siena e Trento, la peggiore invece è Frosinone. Ma non è tanto della classifica in sé che ci occupiamo oggi, quanto di una tendenza generale dell'approccio che le amministrazioni hanno ai problemi dell'ambiente. Ne abbiamo parlato con Alberto Fiorillo, di Legambiente, che è il responsabile aree urbane ed è stato tra i curatori del rapporto. C'è una crisi economica a cui non corrisponde però un decremento di alcuni tipi di consumi e c'è una emergenza rifiuti in corso a cui non è corrisposto una diminuzione della produzione di spazzatura. Io mi sento spesso dire però delle amministrazioni, ma da quando c'è stato Napoli c'è molto interesse. Perché... Guarda, questo è vero. Cioè, nel senso che anche noi abbiamo riscontrato che c'è una, cioè che l'attenzione sui rifiuti è cresciuta tantissimo, sia da parte della popolazione che da parte delle amministrazioni. Mancano delle scelte che sono conseguenti a questa attenzione. C'è bisogno di una conversione del sistema produttivo anche per ridurre gli imballaggi, c'è bisogno di una diversa attenzione ai materiali che vengono utilizzati, soprattutto ai materiali a perdere affinché siano più compatibili con l'ambiente. Senza poi considerare che comunque presa da tutti i punti di vista, cioè dal punto di vista del cittadino e dal punto di vista dell'amministratore, il primo passaggio, il passaggio fondamentale è sicuramente quello della riduzione dei rifiuti, perché poi puoi ragionare e devi, anzi poi si deve ragionare sulla raccolta differenziata, poi si deve ragionare su come recuperare i rifiuti o recuperare materiali o recuperare energia tramite la termovalorizzazione dei rifiuti, più banalmente l'incenerimento, che così si capisce, però chiaramente il primo passaggio è quello della riduzione della produzione, della quantità di spazzatura che noi buttiamo. Da questo punto di vista ci sono già anche degli strumenti che spingevano in questa direzione, il passaggio dalla tassa alla tariffa, cioè tutti noi oggi paghiamo virtualmente una tariffa per la produzione di rifiuti. Questa tariffa è più o meno avanzata, è in una fase più o meno avanzata a seconda delle aree del paese, però è una tariffa fittizia, cioè nel senso che io sto a Roma, pago la TARSU, ma pago la TARSU non in base alla spazzatura che io produco, ma in base alla spazzatura che produce Roma. Non è un grande incentivo a produrne di meno, cioè se io ho un appartamento di 100 metri quadrati ma butto mezzo chilo di spazzatura al giorno, pago X. Se ho un appartamento di 400 metri quadrati ma butto 3 kg di spazzatura al giorno, pago Y. Ma se ho un appartamento di 500 metri quadrati e per un mese non butto spazzatura, pago comunque Z. Certo. Insomma, non sono incentivato a ridurre e a fare più attenzione anche a differenziare. E poi, cioè, diciamo che possiamo anche, insomma, dire la verità, che sono temi che sono la mobilità, i rifiuti, la qualità del trasporto pubblico, la qualità dei servizi locali, sono temi che sono molto vicini al cittadino, però anche per ovvi motivi, secondo me. I temi dominanti nel dibattito politico poi sono altri, diventano la sicurezza, diventano l'immigrazione, diventano i pirati della strada, cioè tutti i temi che hanno naturalmente una loro legittimità, ci mancherebbe altro, però quando poi vai a vedere quelle che sono le cifre ti rendi conto che ci sono alcune emergenze che sono più emergenze di altre. Quando tu fai diventare un tema emergenza, ed è il caso della spazzatura, della mobilità, eccetera, gli strumenti per poterlo risolvere sono molto più limitati. E quindi? E quindi dovresti agire per quello che riguarda la spazzatura, per quello che riguarda la mobilità, per quello che riguarda il servizio di depurazione, eccetera, dovresti agire in maniera preventiva, cioè dovresti agire prima prendendo delle misure che ti portino ad evitare che si arrivi all'emergenza, o addirittura che, come nel caso della mobilità, che l'emergenza si cronicizzi. Sì, il discorso è ovviamente logico, condivisibile e tutto, però è piuttosto difficile, nel senso, vista la miopia che più o meno fino adesso ci ha caratterizzato, ecco, su questi temi. Ti dico, noi siamo in una situazione, diciamo, a livello locale, ma poi anche a livello nazionale, in cui l'amministrazione si comporta, ragiona sempre e soltanto sul brevissimo periodo. Quindi, anche da un punto di vista economico e finanziario, le risorse che ho disponibili e le politiche che io intendo fare non sono politiche che poi mi daranno risultati magari tra 5-6 anni, ma sono politiche che mi devono dare risultati visibili per le prossime elezioni. E questo, diciamo, ha distorto un po' il sistema, cioè lo vediamo, c'è una differenza anche per quello che riguarda l'approccio ad alcuni interventi banalissimi. Io faccio un parallelo Roma-Parigi per quello che riguarda la mobilità ciclabile. Sì. A Parigi hanno allargato le corsie preferenziali degli autobus per consentire anche alle biciclette di poterci camminare, ed hanno messo in piedi questo sistema che ha fatto, diciamo, fatto il giro del mondo come notizia, questo di Vélib', le biciclette a noleggio. È un sistema che propone 20.000 biciclette e dei parcheggi nell'area urbana che non sono distanti tra loro più di 300 metri. La stessa cosa, diciamo, è stata fatta a Roma. È partito in via sperimentale solo nel centro storico con una dozzina di parcheggi e qualche, se non sbaglio, stiamo intorno alle 200 biciclette. È evidente che diciamo, la pilla attrattiva, la competitività di questo sistema è estremamente bassa rispetto a quella parigina. Dopodiché uno si dice, ah, ma come mai a Parigi si vede che hanno voglia di girare in bicicletta i francesi, mentre a Roma tutta questa voglia non c'è? Beh, diciamo che sei partito con due sistemi differenti, il primo subito un sistema di grande impatto che è diventato, oltre che un mezzo di trasporto, una moda, e il secondo invece uno specchietto per le allodole, per dire sì, lo facciamo anche noi. Cioè, diciamo, è assai probabile che chi arriva in centro con un altro mezzo di trasporto non ha più bisogno della bicicletta per spostarsi. Quelli lì sono tragitti che fai tranquillamente a piedi. Queste cose vanno fatte, tu dici, più verso le periferie, sì, che verso, esatto, il centro. Esatto, noi abbiamo invece una serie di interventi che sono veramente… Sì, diciamo, da turista, ecco, mettiamo così… Assolutamente, ecco, da turista. Come prendi l'autobus scoperchiato, puoi, esatto, prenderti la bicicletta. Esatto, sono interventi da turista, quindi… Quello che poi fortunatamente non è una situazione generalizzata nel paese, nel senso che per quello che riguarda gli ambiti urbani ci sono delle notevoli, enormi differenze tra città e città, cioè noi abbiamo visto la classifica, mette prima Belluno e ultima Frosinone, tra le due c'è un abisso, cioè Frosinone è una città che ha elevate concentrazioni di smog e Belluno invece ha tutti i valori entro i limiti. Belluno ha una raccolta differenziata diciamo ottima, cioè ha su standard di gran lunga superiori a quella che è la media italiana, cioè il doppio della media italiana, e Frosinone arranca in questo, cioè, insomma, ci sono poi ovviamente delle differenze, però ecco, l'andamento complessivo, insomma, come la valutazione generale sullo stato di salute ambientale delle città, è una valutazione di stasi, cioè è una cosa che tutto sommato migliora fortunatamente, complessivamente, molto lentamente. Ma questo miglioramento molto lento è dovuto al fatto che c'è un pacchetto di città che cresce mentre le altre restano ferme o peggiorano. L'anno scorso avevate coniato la città di Belnomi, Belnomi, sì, insomma, per dire proprio questo, che ci sono alcuni che hanno delle eccellenze, tutti un po' diverse perché ciascuno prende un filone, ed altri che invece proprio sono completamente allo sbando, ecco. Sì, è così, perché peraltro questo vale anche a livello europeo. Noi l'abbiamo sottolineato anche nel rapporto che abbiamo fatto per il Sole 24 Ore. Ci sono, a livello internazionale, a livello mondiale, ci sono tanti progetti per costruire delle città ecologiche. Un cantiere già aperto a Dongtan in Cina, vicino a Shanghai, per fare una città intanto diciamo, appena sarà inaugurata, la prima inaugurazione sarà una città da 500.000 di abitanti, una città completamente ecocompatibile da un punto di vista energetico, da un punto di vista della mobilità, eccetera. Ci sono dei progetti analoghi per centri urbani più piccoli in Francia, le Ecoville, in Inghilterra, dove si vorrebbero fare delle piccole ecotown da 30-40.000 abitanti, anche queste col principio dell'autosufficienza energetica. E poi ci sono tanti altri casi, insomma. Quindi questo da una parte ci segnala che c'è, come dire, un crescente desiderio, una crescente domanda di sostenibilità urbana. Nello stesso tempo, però, diciamo, c'è una follia anche nel voler fare delle città ex novo per due ordini di ragioni. La prima è che ovviamente la città non è un gioco per bambini che uno fa col Lego, col Playmobil, mette i mattoncini, ci mette i personaggi e quella comincia a funzionare. Ma a parte questa artificialità dell'intervento, c'è un'altra cosa da sottolineare, che noi abbiamo già tanti esempi di città compatibili, ce le abbiamo in giro per l'Europa e ce le abbiamo anche in giro per l'Italia. Sono però esempi di piccole parti, di piccole componenti di città compatibili. Cioè tu hai, che ne so, Friburgo col famoso quartiere senza auto che funziona benissimo, hai un intero distretto di Stoccolma che produce biocarburante utilizzando i gas prodotti con gli scarichi dei WC, la raccolta differenziata di città italiane come Verbania o come la stessa Belluno. Se tu riuscissi a far sì che tutto questo si riproduce in un'unica città, avresti già la Mazda, la Downtown, le Ecoville, le Ecotown, con un doppio vantaggio però, che non hai consumato nuovo suolo. Il secondo vantaggio, oltre a quello di non consumare suolo, è quello di poter recuperare l'esistente, dargli una nuova dignità, dargli una nuova collocazione, che è l'operazione probabilmente ambientalmente più sostenibile che si possa fare, cioè quello di ridurre l'impatto di quello che tu già hai. Ci fermiamo qui, è tutto per questa puntata di Respiro. Vi ricordo, per scriverci, respiro@radio24.it. Adesso la linea passa al riposo del guerriero. L'appuntamento è per la prossima settimana alla stessa ora.